paura da bastardo cane. Morire solo, cicatrice addosso, danni e fame, come un povero mentecatto, ultimo atto, tragedia di un matto, paura dell'oblio insana, di una stanza sola, poesie che solo la notte in seno portano, le donnacce come sale e sonno, tremano lievi ormai, le pareti, un pazzo è rimasto, un mostro che ti ama, orme su una spiaggia mai calpestate, la marea ne ha cancellati soli passi, ora sto come le donne di malaffare, misero pasto, stringono bellezze queste mani, è rimasto solo un solitario coltello, per le vene pensieri insani. Queste non sono parole ma un fardello di lenta morte che sulle pagine getto per toglierlo dall'anima e svuotare il petto. Le voci fantasmatiche ricordano dei bar mentre le mani scrivono paranoia per un dottore. Il microfono è guaritore e la storia surreale di gloria della mia anima. No, io non paro sti insulti e mi amo ancora. Sono la radice del male, il mai nato di queste strade. Mai nato e ho nato troppo tardi nei tuoi pensieri, carta con cui fare veglieri, carte, strade, di un verso capolavoro che a causa dei potenti non prenderà il volo, non prenderà il volo. Questo verso sobrio ora non ho bevuto, questa anima mezzo posseduto, non ho mentito, forse sì, ma so forse dentro che porto un passo arso come il vento e il suo mulino, la mia follia di averti accanto, bimba mea. Bimba mea, questo verso sobrio, ora non ho bevuto, questo animo mezzo posseduto, non ho mentito, forse sì, ma so forse dentro che porto un passo arso come il vento. E il suo mulino, la mia follia di averti accanto, la mia follia di averti accanto, bimba mea, dolce posseduta musa. Paura da bastardo cane, morire solo, cicatrice addosso, danni e fame, come un povero mentecatto, ultimo atto, tragedia di un matto, paura dell'oblio insana, di una stanza sola, poesia che solo la notte in seno portano le donnacce come sale e sonno, tremano lievi ormai le pareti, un pazzo è rimasto, mostro che ti ama, orme su spiagge mai calpestate, la marea ne ha cancellati soli passi, ora sto come le donne di malaffare, misero pasto, bellezze e queste mani è rimasto solo un solitario coltello per le vene e pensieri insani. Queste non sono parole ma un fardello di lenta morte sulle pagine getto per toglierlo dall'anima e svuotare il petto. Le voci fantasmatiche ricordano dei bar mentre le mani scrivono paranoia per un dottore. Il microfono guaritore è la storia.